Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori a questo appuntamento dedicato ai libri di economia. Oggi cominciamo parlando di economia italiana ed esattamente di mezzo secolo di economia italiana. Il libro scritto da Patrizia Battilani e da Francesca Fauri, due ricercatrici insegnanti. Patrizia Battilani insegna storia economica e storia del turismo all'Università di Bologna, sede di Rimini. Francesca Fauri insegna storia economica dell'Europa contemporanea nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Bologna. È un libro edito dal Mulino, 1945-2008. Dottoressa Fauri, come nasce questo libro? Perché è importante in questa fase parlare di storia dell'economia italiana? Ecco, in questo libro abbiamo cercato e abbiamo pensato fosse importante di dare una visione di lungo periodo dell'economia italiana, in quanto questa parte di secolo, cioè la seconda metà del Novecento, che noi analizziamo fino ai giorni nostri, ha rappresentato per l'Italia un'occasione importante per completare il suo processo di industrializzazione, ridurre le distanze con i paesi più avanzati, rimettersi al passo nella diffusione delle nuove tecnologie, arrivare a livelli di qualità della vita molto simili a quelli dei paesi più avanzati. Quindi volevamo dare questa lettura di questi cambiamenti epocali avvenuti in così breve spazio nell'economia italiana, insieme anche a dare anche una visione generale sulle trasformazioni che hanno attraversato in questi anni l'economia italiana, quindi il difficile recupero dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi gli anni della ricostruzione, gli anni del miracolo economico, i difficili anni 70 con la crisi petrolifera e tutto ciò che ha implicato per l'economia italiana, i ritardi che si sono accumulati proprio in quegli anni così difficili da affrontare, gli anni 80 e quindi poi gli anni più recenti. In tutto questo, tra l'altro, ci è piaciuto anche guardare ad esempio a questioni particolari come che magari altri testi sono meno analizzate, come i servizi, la società dei consumi, il capitale umano, ecco, quindi dare una visione proprio di insieme dei cambiamenti della società e delle sue componenti principali in questo lungo periodo. Ecco, ma in questo periodo, professoressa Fauri, c'è stata una continuità, una dinamica, diciamo così, di cui si può descrivere un percorso unitario nell'economia italiana, oppure ci sono stati dei segni importanti di discontinuità, dei salti, delle scelte che hanno condizionato fortemente in positivo o magari anche in negativo questo cammino dell'economia italiana? Sicuramente ci sono state delle discontinuità importanti, delle cesure date innanzitutto da motivi storici, nel senso che la Seconda Guerra Mondiale è una cesura fondamentale che già di per sé spiegano poi le difficoltà del periodo successivo, però sono stati anni in cui ci sono state scelte in negativo e in positivo, importanti comunque in ogni periodo analizzato nel secondo dopoguerra, scelte secondo me importanti sono state ad esempio l'adesione all'economia occidentale, al piano Marshall e quindi saper rinnovare l'economia italiana con macchinari americani che hanno saputo aumentare la produttività e aumentare il mercato a disposizione dell'economia italiana. Così dopo anche ci sono state cesure importanti, dicevo la crisi petrolifera, ma anche gli anni del miracolo economico, sulle quali magari può dire due parole la mia collega che se ne è occupata più in dettaglio. In effetti Patrizia Battilani ha seguito per questo libro la parte, diciamo, iniziale, quella che viene chiamata l'età dell'oro, 1953-1973, gli anni della ricostruzione, gli anni dell'apertura all'Europa, dell'apertura al commercio internazionale, gli anni in cui l'economia italiana è diventata in fondo una delle grandi economie mondiali. Quali sono stati i fattori che hanno portato a questo risultato? Dottoressa Battilani. Beh, innanzitutto la capacità e la voglia di cogliere le opportunità che si stavano presentando. Quella è una fase di crescita straordinaria, non solo per l'Italia, ma per tutta l'Europa e in generale per il mondo intero. E l'Italia fa le scelte in quegli anni che servono per poter sfruttare pienamente queste opportunità. Quindi la scelta di optare per il libero mercato e quindi di inserirsi insomma nel progetto europeo di un mercato comune, la scelta di puntare su quelle che all'epoca erano le tecnologie più innovative. Ecco, tutta una serie, una vasta gamma di scelte positive importanti che però non coinvolgono l'intera economia del paese, nel senso che ci sono poi anche scelte che obbligatoriamente vengono posticipate a un'altra epoca, nel senso che in quei 20 anni, dal 53 al 73, la priorità è la crescita economica. Ecco, in questa prospettiva di crescita sono rimasti aperti anche in quel periodo problemi strutturali, come per esempio la divisione tra nord e sud del paese. Forse se in quegli anni si fossero attuate delle politiche, anche se ovviamente la storia non si fa con il se e con il ma è sempre utile riflettere, ecco, se in quegli anni si fossero attuate delle politiche maggiormente aperte anche nel mezzogiorno verso una crescita imprenditoriale, industriale e non solo assistenziale, forse la logica avrebbe dovuto essere diversa, dottoressa Battilani. Ma in realtà in quegli anni il divario si riduce, anzi il periodo del miracolo economico è proprio una fase in cui si riducono in generale i divari regionali e in cui anche una parte della parte del paese che non aveva ancora partecipato al processo di sviluppo industriale riesce finalmente a far crescere l'industria sul proprio territorio. Quindi in questa fase abbiamo tutto il nord-est del paese, il centro, che avviano un loro processo di industrializzazione e di sviluppo. Lo fa un pochino anche il sud, di meno, però è quella una fase in cui i divari si riducono. È l'epoca successiva quella in cui le cose cominciano a non andare più bene, insomma si spezza il circolo virtuoso. Ecco, in questa prospettiva, allora, professoressa Fauri, guardando un po' all'economia italiana negli ultimi decenni, decenni poi in fondo di stagnazione, di difficoltà di crescita inferiore a quella degli altri paesi, questo deriva anche dalle scelte fatte in precedenza, dalle scelte un po' di non ulteriormente approfondire la ricerca, l'istruzione, lo sviluppo della scienza e dell'innovazione? Dottoressa Fauri. Sì, sicuramente ha ragione, questo è quello che risulta anche dalle nostre ricerche. Ci sono stati anni di crisi importanti, cioè ricordiamoci dopo il 73, tra il 73 e la fine degli anni 70, inizio degli anni 90, insomma l'Italia ha vissuto degli anni difficili, la crisi petrolifera si è abbattuta sull'Italia con particolare violenza, rapporto anche ad altri paesi meno dipendenti forse dalle risorse energetiche esterne. Le scelte fatte possono essere discutibili, le abbiamo discusse, ci sono partiti a favore, partiti contro le scelte fatte in quegli anni, però il prezzo pagato per queste scelte, cioè la crescita della spesa pubblica e dell'indebitamento, sono scelte che ancora oggi pesano, no, sulle politiche attuali e sulle nostre spalle, ed è chiaro che con queste scelte hanno anche implicato un rallentamento di investimenti in altri settori, come appunto diceva lei, sul capitale umano e sulla ricerca, che è un po' il futuro poi, no, di un paese. Quindi sicuramente sì, c'è stato questo rallentamento dovuto anche alle scelte di quel periodo. Ecco, in questa prospettiva c'è anche il fatto che l'Italia ha avviato, soprattutto nell'ultima parte degli anni 90, una politica di privatizzazioni, di liberalizzazioni, però forse un po' in ritardo rispetto agli altri paesi e restando un po' a metà strada, non riuscendo a conseguire tutti i benefici di un'apertura al mercato, e in una situazione in cui invece l'economia italiana era molto legata alle cosiddette partecipazioni statali, che hanno un po' guidato poi di fatto la crescita dell'economia italiana nella prima parte del secolo. Quindi in questa prospettiva, in fondo, l'Italia dal punto di vista strutturale è ancora un po' a metà del guado nel dare alla propria economia una caratteristica di vera economia di mercato. Dottoressa Battilani. Sicuramente l'Italia avvia all'inizio degli anni 90, in modo particolare dopo il 92-93, che sono due anni molto difficili e molto problematici, un processo di profonda trasformazione di quelle che erano le caratteristiche di base del suo modello economico e quelle caratteristiche che erano state messe in piedi negli anni del miracolo economico, nell'età dell'oro, e che restano tali anche per tutti gli anni 70 e 80. All'inizio degli anni 90 si va a smantellare quel modello perché non risponde più alle caratteristiche, alle scelte strategiche che anche l'Europa in generale fa. E l'Italia privatizza un po' dopo gli altri paesi, però non è che rispetto ad altri grandi paesi europei avesse più Stato, nel senso che l'impresa pubblica era molto forte anche in Francia e lo era stata anche molto in Gran Bretagna, più o meno come in Italia, però i processi di privatizzazione, soprattutto in Gran Bretagna, erano stati avviati qualche decennio prima. L'Italia fa molti cambiamenti tra il 93 e il 97, perché cambia il modello bancario, dicevo, abbandona lo stato imprenditore, inizia anche a modificare il suo mercato del lavoro. Quello che non riesce a cambiare, ed è questa forse la parte più problematica, sono le specializzazioni settoriali. E questo è il punto debole del nostro paese, un paese che era stato legato alle specializzazioni settoriali sulle quali aveva ottenuto dei vantaggi competitivi negli anni dell'oro, certo, nell'età dell'oro, e poi li aveva rafforzati negli anni 70 e 80. Ecco, quindi dal punto di vista forse dell'architettura istituzionale cambiamo moltissimo e ci adeguiamo anche molto agli altri paesi. Quello che noi riusciamo a fare invece è diventare simili agli altri nelle specializzazioni produttive. Certo, questo è anche un tema appunto molto attuale, la possibilità dell'Italia che ha queste specializzazioni, che possono essere appunto la ceramica, la meccanica, i tessili, l'abbigliamento, calzatura, fare diventare questi settori dei nuovi modelli di sviluppo e di crescita, ma questa è una partita aperta e purtroppo il tempo per approfondirlo non c'è. Io ringrazio la professoressa Patrizia Battilani e la dottoressa Francesca Fauri, autrici del libro Mezzo secolo di economia italiana 1945-2008, edito dal Mulino nella collana dei manuali, costa 24 euro, è un'analisi di quasi 300 pagine che appunto aiuta molto a cogliere quelli sono gli elementi di fondo di un'economia italiana che resta un'economia complessa, un'economia certamente che ha molti problemi, ma che ha anche questa crisi in fondo gli sta dimostrando molte opportunità. Si tratta di far valere più le opportunità che non i problemi. Grazie a quanti ci hanno ascoltato. Economia in pagina. Buongiorno, ben ritrovati alla nostra puntata dedicata ai libri di economia. Abbiamo parlato nella prima parte con Patrizia Battilani e Francesca Fauri di Mezzo secolo di economia italiana, un libro che appunto racconta tutta l'avventura dell'economia italiana dal dopoguerra ad oggi. Adesso entriamo nel particolare di un problema appunto specifico dell'economia italiana ed è la politica pensionistica. Lo facciamo con Matteo Jessola. Buongiorno. Buongiorno. Matteo Jessola è professore e ricercatore presso la Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Milano, dove insegna politiche sociali e del lavoro, ed ha scritto il libro La politica pensionistica per il Mulino nell'ambito della collana sulle politiche pubbliche in Italia. Quindi La politica pensionistica è un libro che descrive tutta la parabola, anche questo negli ultimi 50 anni delle politiche previdenziali, mettendo in luce quelle che sono state le numerose peraltro riforme di questa previdenza che hanno tentato di tenere in equilibrio i conti. Allora, Jessola, qual è il filo conduttore della politica previdenziale italiana negli ultimi 50 anni? Domanda difficile. Domanda difficile. Però quando si ha a che fare con un professore è sempre bello fare domande difficili. Grazie. Allora, è sicuramente una domanda difficile da rispondere. Potremmo dire che purtroppo, se dovessimo, anche se nel libro non tratto questo argomento, il filo conduttore sembra quello di una politica pensionistica frammentata, nella quale gli interventi si susseguono in modo incrementale, a volte anche con alcuni passaggi più bruschi, però difficilmente si riesce a dar vita a un programma coerente di sviluppo del sistema pensionistico italiano. Questo è successo quando la politica pensionistica era fortemente incentrata sul cosiddetto pilastro pubblico, cioè sul sistema pensionistico pubblico. Ci sono stati interventi ormai noti, insomma, su cui molti hanno scritto, diciamo adottati con eccessiva facilità dal punto di vista della spesa pubblica, oltretutto anche attraverso processi particolari nelle sedi legislative, ad esempio interventi molto importanti adottati in commissione, come era stato quello sull'introduzione della pensione di anzianità per i dipendenti pubblici nel lontano 56, quindi con provvedimenti un po' generosi in un certo senso. Molto generosi. E questo, chiaramente a partire dagli anni 90, questa tendenza all'espansione del sistema pensionistico e dei diritti sociali nel settore della tutela della vecchiaia si è chiaramente invertita e siamo passati a politiche di stampo prettamente sottrattivo, quindi volte al contenimento della spesa e alla riduzione, diciamo, delle aspettanze, quindi dei livelli pensionistici. E però anche lì, nelle ormai 5 riforme che sono state adottate, quello che sembra essere mancato è un piano coerente di riforma del sistema pensionistico. Questo ha portato diciamo, la situazione in cui ci troviamo oggi, a conseguire dei risultati importanti dal punto di vista del contenimento della spesa e dei costi, soprattutto, come sappiamo, nel medio-lungo periodo. E però ha portato anche un insieme di problemi relativi a quella che sarà la futura adeguatezza delle pensioni, soprattutto per le giovani generazioni che andranno in pensione col sistema contributivo, quindi all'incirca a partire dal 2035. Da questo punto di vista, oltretutto, seguendo sempre il filo della, come dire, scarsa comprensività e integrazione dei diversi interventi previdenziali, va detto che oggi la politica pensionistica è anche molto più complicata, perché non, le future prestazioni pensionistiche, per essere adeguate, dovranno combinare prestazioni, pensioni pubbliche con pensioni complementari. E Che qui. comunque questo è un processo che è stato avviato e che avrà una sua dinamica che andrà probabilmente a maturazione nel corso di decenni, non di Esatto, anni. esatto. Quindi è già in pratica in atto una riforma che gradualmente sta portando il sistema pensionistico tradizionale a un sistema basato appunto sui due pilastri, basato sul sistema contributivo sotto il profilo della previdenza pubblica. Quindi la riforma previdenziale, ogni tanto si parla di necessità di riforma previdenziale, però diciamo è una riforma che sta già compiendo i suoi passi già adesso. Assolutamente, l'Italia oltretutto, al di là di alcuni, dire, paesi che si sono mossi molto in anticipo nel settore delle riforme previdenziali come Gran Bretagna e Stati Uniti negli anni Ottanta, l'Italia comunque si è mossa abbastanza presto con la riforma Amato del 1992, a cui è seguito il secondo intervento sempre del governo Amato del 93 sulla previdenza complementare, e lì è stato avviato proprio questo processo di riconfigurazione del sistema pensionistico italiano, non tanto su due, ma addirittura su tre pilastri, quindi uno pubblico, uno complementare, cosiddetto occupazionale, uno, un terzo pilastro invece di tutela individuale. E questo processo è stato successivamente rafforzato, soprattutto con chiaramente la riforma Dini del 1995, che introducendo il sistema contributivo, dal mio punto di vista, ha prodotto tre effetti importanti al di là del contenimento dei costi. Il primo effetto è quello di rendere, di ridurre molto le prestazioni per le future generazioni. Il secondo effetto è di rendere queste prestazioni variabili secondo una serie di parametri. Ad esempio, minore sarà la crescita economica, minore sarà il livello delle prestazioni, perché sono agganciate al prodotto interno, alla crescita del prodotto interno lordo. Il terzo punto fondamentale è che il sistema contributivo è un sistema per natura non redistributivo, cioè si contano i contributi e sulla base di quello viene calcolata la pensione. E questo, come dire, nel sì. Beh, non è redistributivo a livello di calcolo, ma è redistributivo a livello di fondi, nel senso che con il sistema comunque retributivo, contributivo, pardon, si calcola la pensione tenendo conto dei contributi, però questi contributi al momento in cui vengono versati allo Stato servono immediatamente per pagare le Certo, pensioni. in termini di redistribuzione intergenerazionale c'è sempre, è la redistribuzione intragenerazionale che tende a sparire col sistema contributivo, e questo può essere problematico perché, come dire, nell'era dell'affluenza, se i tassi, i livelli delle pensioni, per parlare un po' più semplice, sono molto elevati, anche come dire, un approccio neutrale rispetto al reddito, quindi l'assenza di redistribuzione può non essere un problema. Mentre invece quando i livelli delle pensioni scendono molto, come dire, la neutralità del sistema contributivo rispetto al reddito può essere un problema, perché chiaramente. Certo, ma allora la domanda di fondo è questa: il sistema attualmente è sostenibile? Questa è una bella domanda, che giro agli economisti che saranno intervistati dopo di me, visto che io sono uno scienziato politico. I dati che si hanno attualmente indicano che l'Italia continua ad avere la spesa pensionistica più elevata nell'Europa a 15 e anche a 27, e quindi da questo punto di vista qualche problema c'è, in termini di sostenibilità economica Certo. soprattutto. È anche vero che l'aumento previsto nei prossimi 20 anni, per quanto riguarda la spesa previdenziale italiana, è superiore soltanto a quello del Regno Unito e della Svezia, per cui l'Italia è da ciò si deduce che l'Italia è uno di quei paesi che è intervenuto con più decisione, seppur sul contenimento dei costi, seppur spostando questi interventi molto in avanti. Ecco, però si parla, per esempio, della necessità di alzare l'età pensionabile per tener conto dell'allungamento della vita media, che è un dato, fortunatamente, un dato di fatto, si vive più a lungo, la vita media sia degli uomini sia delle donne si allunga, le prestazioni previdenziali quindi devono essere concesse per un maggior periodo di tempo, questo richiede maggiori oneri e per compensare questi maggiori oneri si propone di dover innalzare l'età pensionabile. Età pensionabile che ufficialmente in Italia è tra le più basse d'Europa, quindi questa logica ha un suo senso, un suo valore. Allora, questa logica ha un suo valore, recentemente è stata portata anche alla ribalta del dibattito dell'agenda politica in virtù di una sentenza della Commissione europea. L'età pensionabile, intesa come pensionamento di anzianità per gli uomini, è abbastanza elevata, nel senso che è a 65 anni, anche se sono previsti dei canali di uscita attraverso le pensioni di anzianità, il famoso scalone e poi scalino rimodellato. Per le donne anche l'età pensionabile invece rimane bassa perché è a 60 anni. Va messi forse in chiaro tre punti. Il primo è che l'età effettiva media di uscita dal mercato del lavoro per i lavoratori italiani è comunque non particolarmente inferiore a quella della media europea, è un anno e mezzo circa inferiore. Questo indica che non il gap non è eccessivo, che però probabilmente delle azioni vanno intraprese per colmare questo gap. Il secondo aspetto è che chiaramente, appunto, dal punto di vista di questa differenza di età in base al genere, per quanto riguarda i dipendenti pubblici, verrà colmata perché bisogna rispondere alla sentenza della Corte di Giustizia europea. Ecco, sia per quanto riguarda l'età pensionabile e sia per quanto riguarda il livello delle pensioni, il terzo punto che volevo indicare, su cui mi volevo soffermare un secondo, è che a mio parere gli interventi restrittivi devono essere calibrati in modo diciamo da colpire proporzionalmente in modo minore le categorie o a più basso reddito o quelle esposte a maggiori rischi e a lavori particolarmente usuranti. Cioè, il problema, bisogna davvero cercare di depoliticizzare in parte la questione. L'età pensionabile, ragionare su un'età pensionabile singola è un errore. Quindi avere un'età pensionabile flessibile rispetto alle persone, anche perché sono diversi mestieri, diversi lavori, diverse le professionalità, diverse anche le condizioni delle persone, quindi sarebbe giusto avere maggiore flessibilità in questo senso. Sarebbe giusto, come molti sostengono nel dibattito attuale, ritornare a un'età pensionabile flessibile come quella che aveva proposto Dini, probabilmente innalzando, diciamo, la parte bassa della forchetta, che era posta a 57 anni e oggi è irrealistico porla a 57 anni, si può pensare a 60 o 62, reintrodurre l'età pensionabile flessibile e poi come dire, portare a termine finalmente quel lavoro di esenzioni particolari per i cosiddetti lavoratori impiegati in mansioni usuranti, su cui il governo Prodi aveva... Certo, quindi per concludere ci sarebbe bisogno più di manutenzione che di grandi riforme. Sicuramente c'è bisogno più di manutenzione che di grandi riforme, e le riforme sostanziali sono per quei lavoratori che nel mio libro individuo come outside, come midsider, cioè dei lavoratori che non sono molto protetti ma non sono neanche completamente senza protezione. In particolare questi lavoratori sono molto noti, i lavoratori cosiddetti atipici, in particolare i parasubordinati, che avranno pensioni più basse, e che difficilmente, anzi quasi difficilmente avranno pensioni complementari, i dipendenti pubblici che avranno pensioni come dipendenti privati nel settore pubblico ma per i quali manca quasi completamente il secondo pilastro a capitalizzazione, i lavoratori autonomi idem, il tasso di adesione dei lavoratori autonomi alla previdenza complementare è molto basso. E poi, se posso dire l'ultima cosa, si è verificata con le riforme degli ultimi anni una spaccatura all'interno del mondo del lavoro dipendente privato. I lavoratori delle grandi imprese nei settori con forte presenza sindacale potranno combinare pensione pubblica e pensione complementare, perché hanno aderito alla previdenza, certo, complementare. Nelle piccole imprese e nei settori con bassa presenza sindacale, questi lavoratori si troveranno con la pensione pubblica e un TFR probabilmente molto ridotto, perché in un mercato del lavoro flessibile il TFR viene erogato ogni volta che si cambia lavoro. Quindi conoscere un po' queste dinamiche è certamente importante anche per fare le proprie scelte. Io ringrazio il professor Matteo Jessula, che ha scritto La politica pensionistica in Italia, un libro edito da al mulino nell'ambito della collana sulle politiche pubbliche in Italia, costa 28 euro, è un'analisi abbastanza ampia di 350 pagine, ma per rendersi conto di dove va l'Italia, dove va la previdenza, è certamente utile e importante. Grazie professor Jessula, grazie. E grazie a quanti ci hanno seguito.